meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Buon anno, vi auguro un buon anno, vi auguro un felice 2016. Siamo già nell'anno nuovo, un anno che ci riserverà molte sorprese, perché avremo intanto l'ultimo anno di Barack Obama e l'anno in cui si eleggerà un nuovo presidente americano. Ma di questo ve ne parlerò più approfonditamente in un'altra puntata, una delle sfide chiave, visto che siamo ancora in argomento di sfide che riguardano il 2016. Ecco, oggi invece vorrei parlarvi in modo più approfondito dell'economia, di quello che è successo in borsa. Ricordiamolo, in borsa abbiamo flirtato varie volte con il superamento di quota 18.000 per l'indice Dow Jones, ci siamo arrivati, abbiamo superato la crisi estiva, la crisi che è nata quando abbiamo saputo che c'erano dei rischi di una crescita in Cina forse meno forte di quello che sembravano dirci le previsioni. E dunque abbiamo avuto una borsa piuttosto instabile, piuttosto volatile, che guardava anche a una svolta storica, perché cominciamo questo 2016 con delle svolte davvero importanti dal punto di vista della gestione dell'economia e della finanza. La Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dopo nove anni di tassi sempre al ribasso, e dunque, se non è storia quella, non so cosa sia una dimensione storica parlando di economia, e con invece una direzione opposta da parte della Banca Centrale Europea, che sta ancora cercando di perseguire obiettivi di crescita dell'occupazione pur mantenendo la stabilità dei prezzi attraverso politiche di quantitative easing. Qualche giorno fa, ormai forse già una decina di giorni fa, ho visto Mario Draghi di passaggio qui a New York all'Economic Club e ci ha dato proprio in quell'occasione una serie di punti di riferimento per quella che sarà nel 2016 la politica della BCE. Perché vi parlo della politica della BCE? Perché le due politiche BCE e Fed sono strettamente collegate, naturalmente. Potremo determinare il rapporto dollaro-euro in base agli equilibri di queste politiche monetarie, potremo determinare le possibilità di crescita di un'economia rispetto all'altra grazie alla possibilità di avere stimoli maggiori, e qui sottolineo, quelli monetari non bastano, ci vogliono anche quelli fiscali, ci vogliono investimenti per esempio infrastrutturali. In that situation low oil and commodity prices can have second round effects. Ecco l'Economic Club di New York. Economic Club di New York, voglio raccontarvi di questo club, è un club virtuale, perché non è che abbia una sede, si riunisce di volta in volta in una colazione o in una cena alla quale intervengono importanti personaggi per l'economia globale. In questo caso la riunione era avvenuta al Cipriani a Wall Street, quindi non lontano dal nostro ufficio, e devo dire che quando vuole Mario Draghi sa cosa dire, sa come calibrarlo, sa come impartire allo stesso tempo una lezione ai mercati, che tutto sommato soffrono di maturità perché poi reagiscono per un non nulla, come capitò quando ci fu la sua comunicazione, la comunicazione di quelle che erano le scelte di politica monetaria da parte del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Ci si aspettava un tasso negativo dello 0,40%, è stato soltanto dello 0,30%, e lì è successo un patatrac. Dunque proprio in quell'occasione all'Economic Club Mario Draghi ha rassicurato i mercati, ha cercato di darci una prospettiva per il futuro. In quell'occasione Draghi ha parlato davanti a una gran quantità di economisti e analisti. Guardate, io credo di aver fatto più o meno un conto, probabilmente saranno stati un migliaio, c'erano state almeno un migliaio di persone, tra cui i grossi finanzieri americani, da John Paulson a Mario Gabelli, tanto per citarne un paio. E Draghi ha detto: dovete considerare che la nostra decisione di estendere gli acquisti netti almeno fino a marzo del 2017 e di reinvestire rimborsi del capitale alle scadenze aggiungerà 680 miliardi di euro alla liquidità del sistema fino al 2019, circa il 6,5% del PIL nell'area euro. Ecco, questo era il dato, se volete, che al mercato mancava, ed è un dato che dovremo tenere presente nel corso del 2016. Come dire, la Banca Centrale Europea sa benissimo quello che sta facendo, ha degli obiettivi di medio-lungo termine, coloro che pensano che qualcosa possa capitare nel 2016 che vada a modificare quelle che sono le linee guida di fondo, beh, si sbaglia di grosso, perché le linee guida di fondo resteranno invariate per un bel pezzo e ben oltre il 2016. Poi Draghi ha chiarito che non ci sono state pressioni, ha detto: voci che dissensi all'interno del Consiglio o pressioni di alcuni paesi, Germania in particolare, mi avrebbero costretto a fare qualcosa in meno, sono infondate. Ecco, certo ci sono state alcune critiche per Mario Draghi, però il governatore della Banca Centrale Europea qui in America è molto molto apprezzato. C'è fiducia in quello che dice, c'è fiducia in quello che farà. Marvin King, un altro europeo che qui di passaggio in America perché insegna alla NYU, l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, si è divertito da ex collega a stuzzicarlo proprio su un punto, cioè sul fatto che i mercati, come dire, a volte reagiscono non in modo ordinato, che quindi forse le sue parole sono state calibrate male. Però anche su questo Draghi è stato chiarissimo. Sentiamolo ancora. We have an array of conventional and unconventional measures to deliver that response. Ecco, potremmo chiamare una freddura Draghi questa. Perché, ed è su questo che poi Draghi si intende molto con gli americani e con lo spirito anglosassone. Insomma, la sala esplosa in una specie di risata, perché Draghi ha detto: le nostre scelte rispondono ai nostri obiettivi, di banchieri centrali, di controllo dei dati macroeconomici, di controllo dell'inflazione, e non rispondono a quello che si aspetta, a quello che vorrebbe il mercato. Ecco, per dare contesto alla sua azione, Draghi ha anche dedicato la prima parte del suo discorso al pericolo di deflazione. Il nostro obiettivo, dice ancora il governatore della BCE, è quello di un tasso di inflazione al 2%. Quello che vediamo per ora, ci dice che questo tasso è ancora molto lontano e dunque forse potremmo dover andare oltre la scadenza del 2017. Se ci sarà bisogno, lo faremo. Abbiamo sia l'autorità che i mezzi per farlo. Dunque gli americani, gli investitori americani sono rassicurati dal fenomeno Draghi. Draghi, devo dire, è l'unico numero di telefono che si può chiamare dall'America per capire davvero quali siano gli interessi dell'Europa, perché anche se la Germania è il paese più importante, anche se la Merkel è stata nominata da Time Magazine personaggio dell'anno, alla fine la Merkel fa gli interessi della Germania. Prima di tutto gli interessi della Germania, poi magari anche quelli dell'Europa. Draghi no, ecco, Draghi è l'unico che fa gli interessi davvero dell'Europa con degli strumenti in mano, strumenti monetari, che possono avere un impatto e che hanno davvero cambiato la situazione nel vecchio continente, che è partito purtroppo con grande ritardo nell'introduzione di politiche espansive invece che restrittive o di austerità. Ma veniamo alla Yellen e alla Federal Reserve. Earlier today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point, bringing it to 0.25% to 0.5%. Ecco, avete sentito la Yellen, Janet Yellen, nella conferenza stampa storica in cui ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse. 0.25-0.50% è la nuova banda di oscillazione, non è un aumento forte. E direi che le caratteristiche che dobbiamo tenere presente guardando in avanti, guardando al 2016, sono delle caratteristiche molto precise. La Fed non procederà con degli aumenti di tassi di interesse tra virgolette intensi, procederà piuttosto con degli aumenti molto graduali. Perché? Perché una volta archiviata la crisi del 2007-2009, archiviata formalmente visto che si passa all'aumento dei tassi di interesse, resta l'obiettivo di un tasso di inflazione al 2%. E la Yellen ha voluto chiarire: solo quando avremo raggiunto questo obiettivo del 2%, allora i tassi potranno cominciare ad aumentare in modo più normale. L'elemento più interessante, direi, che è emerso dal punto di vista storico è che in realtà ci troviamo in un nuovo normale. E questo è il fatto da sottolineare per chi voglia guardare al 2016 con dei punti di riferimento precisi. Il nuovo normale della Federal Reserve è un nuovo normale che prevede dei tassi di interesse molto bassi, in linea con le medie storiche, al di fuori di quel periodo fra il 1970 e il 2005 in cui i tassi di interesse erano stati molto più alti. Cioè è possibile che si sia imboccato davvero un periodo di stagnazione secolare, come la chiama Larry Summers, quindi un periodo in cui c'è bisogno di forti stimoli per l'economia, o comunque di un periodo in cui l'inflazione sarà sotto controllo. Non ci saranno più per parecchio tempo quei meccanismi che davano una reazione molto rapida a un aumento dei tassi di interesse, impatto sull'inflazione, aumento dei prezzi e dell'economia, in cui il ciclo era chiarissimo: l'economia aumenta, si surriscalda, aumenta l'inflazione, aumentano i tassi di interesse che debbono tenere sotto controllo la crescita eccessiva dell'economia. Non avremo una crescita eccessiva, non avremo dei surriscaldamenti e dunque lo scenario per avere i tassi di interesse sotto controllo negli Stati Uniti direi che è molto credibile. Anche per questo i tassi di cambio, tutti prevedono che si arriverà a un rapporto di 1-1 fra dollaro ed euro, io credo che a un certo punto ci si arriverà, ma forse ci si arriverà in modo molto più graduale di quello che si può immaginare oggi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Visto che abbiamo parlato del futuro dell'economia e del fatto che gli stimoli monetari continueranno ad esserci un po' più forti in Europa, un po' meno forti negli Stati Uniti, ma tutto per consentire all'economia di correre in fretta, mi sembra molto appropriato per celebrare questo primo gennaio una canzone di Tracy Chapman che, come dire, ci dà un minimo di ottimismo guardando al futuro. Fast Car. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi augura un felice anno nuovo, un felice 2016 e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.